Davanti al computer a vedere delle foto, delle fotografie di Soweto e delle di Melville, di Sandton e delle altre aree sensibili di Johannesburg. Siamo nel quartier generale della Polizia Municipale di Johannesburg e nostro ospite, o meglio, siamo noi, Radio 24, ad essere in questo caso ospitata, è Giovanni Pisapia. Chi è Giovanni Pisapia? Esperto di crime analysis, con esperienze in Italia e all'estero, ha curato anche la sicurezza delle Olimpiadi di Torino 2006 ed oggi è il coordinatore del progetto di sicurezza per i mondiali di Sudafrica 2010 per la municipalità di Johannesburg. Benvenuto, dottor Pisapia. Grazie, benvenuto Dario, benvenuto ai tuoi ascoltatori. Allora, dottor Pisapia, manca davvero ormai pochissimo al fischio d'inizio di questo mondiale. Johannesburg e tutto il Sudafrica sono chiamati anche un po' a rispondere a quello che è l'attesa sul tema sicurezza. Da questo punto di vista, quali sono stati i cardini del vostro lavoro? Noi possiamo dire che la città è pronta e la nazione è pronta ad ospitare i mondiali del 2010. I cardini sono stati un grande livello di sicurezza sia per le venue, perciò ad esempio le match venues dove i match verranno giocati, ma anche per le altre attività parallele alle partite, perciò ad esempio le fan fest dove tutte le persone saranno unite a guardare le partite, ma anche una particolare attenzione per alcune zone della città in cui i turisti andranno. Ecco, da questo punto di vista c'è grande preoccupazione. Si dice che il paese e Johannesburg in particolare non siano città sicure. Qualche consiglio pratico da dare a chi magari arriverà proprio per il mondiale per vedere questi match in quest'area? Ma il consiglio è innanzitutto di divertirsi. Il Sudafrica è pronto ad ospitare i mondiali. Noi abbiamo con tutte le autorità di sicurezza sudafricane, non solo, ma anche le autorità internazionali, abbiamo un apparato di sicurezza senza confronti. Il personale di sicurezza che verrà impiegato per questi mondiali è incredibile. Perciò il mio consiglio è di divertirsi, di essere felici. La gente, in particolar modo del Sudafrica, è pronta ad ospitare tutti coloro che verranno qui in Sudafrica per godersi queste bellissime partite e questo grandissimo evento. Faccio riferimento alla collaborazione con polizia e altre istituzioni a livello internazionale, in particolare su quali punti avete lavorato in questo raccordo comune? Beh, per quanto riguarda il raccordo comune a livello internazionale, potremmo dire che ci saranno poliziotti italiani con la divisa della polizia italiana qui come liaison per adoperarsi per tramite tra le forze di polizia sudafricane e gli spettatori italiani, questo a livello internazionale. A livello nazionale abbiamo un apparato di sicurezza che va dalla polizia municipale alla polizia nazionale, alla polizia della provincia, agli apparati di intelligence per far sì che il mondiale sia un mondiale, come abbiamo detto prima, sereno e divertente per le persone. Rischio hooligans in questi giorni che sta emergendo, si parla dei tifosi argentini, tradizionalmente degli inglesi che scenderanno in massa qui in Sudafrica. Tecniche particolari da adottare per limitare questo rischio? Avete messo a punto un piano strategico particolare? Certo, il piano è stato messo a punto dai paesi di origine, ovvero già dai paesi di origine le persone sono state schedate e già al punto di origine, all'aeroporto, le persone indesiderate sono state respinte. Inoltre, qui in Sudafrica tutte le persone sono comunque tenute sott'occhio dal personale di sicurezza. Questo fa sì che non solo non ci saranno, e noi siamo sicuri che non ci saranno alcun incidente relativo all'hooliganism, ma tutti i possibili incidenti verranno prevenuti in tempo. Un lavoro il suo che continuerà anche dopo i mondiali, vero? Perché Johannesburg, si sa, è una delle città più a rischio del mondo sotto il profilo della sicurezza e quindi la sua esperienza tornerà utile anche una volta, finita la grande avventura di Sudafrica 2010. In che modo? Per la definizione dei piani di sicurezza della città abbiamo attuato un sistema di, si chiama crime mapping and analysis, in cui tutto il crimine viene individuato localmente, geograficamente e temporalmente. Cosa succede? In questo sistema viene dato un immediato analisi su dove succede il crimine, quando succede il crimine, chi commette il crimine. E perciò l'idea della città di Johannesburg è di continuare con questa analisi, e questa analisi è uno dei modi per far sì che la città di Johannesburg sia una città vivibile sia per i residenti ma anche per i turisti nel futuro. Città in cui ancora sono evidenti i segni della divisione, le ferite dell'apartheid, ma proprio lo sport sta dando un contributo importante, no? Senza arrivare a ricordare la celebre finale dell'Ellis Park del 95, in cui Mandela di fatto salutò la vittoria degli Springboks con la maglia della nazionale, sancendo la nascita della Rainbow Nation. Più recentemente Soweto si è aperta al rugby, no? Vero? Anche dal punto di vista della sicurezza è stato un grande esperimento per voi. Assolutamente. Che cosa è successo? Che gli stadi del calcio sono stati dati in mano alla FIFA, perciò per la finale del Super 14, il più grande torneo di rugby del mondo, questi stadi, i stadi che venivano utilizzati per rugby, non potevano essere adoperati. Perciò si sono utilizzati per la finale di questo torneo di rugby, il Super 14, uno stadio di Soweto. Beh, è andata benissimo, non c'è stato alcun incidente. Le persone di Soweto, tradizionalmente di colore, hanno ricevuto le persone, i supporter del rugby tradizionalmente bianchi, a braccia aperte. È stata una festa enorme, e appunto l'importanza dello sport nell'unificare le persone, e per il Sudafrica, ma non solo per il Sudafrica, per il mondo, di una drammatica importanza. E allora grazie a Giovanni Pisapia e buon lavoro, con la speranza di averne davvero poco durante i giorni di Sudafrica 2010, no? Il lavoro sarà tanto, ma perché anche noi vorremmo divertirci. Abbiamo lavorato tanto, 3 anni, tutti i giorni, molte ore, per far sì che i piani di sicurezza fossero pronti. I piani di sicurezza sono pronti, perciò anche noi vorremmo divertirci durante questo bellissimo evento. Grazie.